il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e lo prometto da subito. Ho deciso di fondare un partito, il partito antifreddo. Mi sembra che in questo periodo ce ne sia particolarmente bisogno. E poi sapete, a parte che questo lo dico con una certa rabbia, anche con delle motivazioni forti, perché a parte tutti i disagi in Italia... ho dormito tutta la notte, quel poco che ho dormito, con un mal di gola pazzesco, e ho una leggera febbriciatola, per cui se dovessi farneticare e dire delle cose un po', diciamo, inopportune, mi giustificherete senz'altro. Ma dicevo, questo partito antifreddo per questo motivo, ma anche perché, come avete sentito e capito in questi giorni, in fondo si può fondare un partito qualsiasi e magari anche con un piccolo organo di informazione che nessuno legge, nessuno sa come si chiami, e ricevere finanziamenti pubblici. Io direi che se qualcuno volesse aderire a questo mio partito, magari se lo faccio da sola, poca importanza, poca sussistenza, invece se voi aderite a questo partito antifreddo, magari riusciamo ad avere, diciamo, il nostro gruzzoletto, il nostro tesoretto. E come sempre, naturalmente, voi sapete che al di là di queste disquisizioni, questo è l'appuntamento mio con voi per ragionare insieme sui fatti della settimana. Sono sempre tantissimi, si parte dalla domenica precedente, si arriva fino a oggi, quindi anche questa settimana molte cose sono successe. C'è il numero verde, come sempre, per voi, per commentare liberamente queste notizie della settimana: 800 24 00 24. Lo ripeto, 800 24 00 24. Tra l'altro, una puntata un po' fuori, diciamo, dalle righe, un po' speciale, poi vi spiegherò perché. Ma sintetizziamo brevemente alcune delle notizie principali. Naturalmente, vi dicevo, proprio di questo partito antifreddo, il gelo continua ad attanagliare, la morsa del gelo, come si dice appunto in gergo un po' banalmente giornalistico, e con tutti i disagi. Ieri Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera diceva: sì, è vero, ci sono questi forti disagi, ci sono state naturalmente anche diverse vittime, purtroppo, però dice c'è una certa isteria anche, no? Succede una nevicata, si chiudono le scuole per una settimana, tilt totale anche per, diciamo, pochi centimetri di neve. Come la pensate voi? E poi sapete la visita di Mario Monti da Obama negli Stati Uniti, e Obama gli ha detto molto chiaramente in faccia: abbiamo grande fiducia in te, sei l'uomo della speranza, così come effettivamente c'è scritto sulla copertina di Time, almeno nell'edizione europea e asiatica. Anche avete visto il bel faccione di Monti, descritto come un nonno elegante con gli occhi sorridenti, e poi alcune frasi dopo che andremo a leggere. Insomma, grande fiducia in Monti, evidentemente, credibilità dell'Italia che è stata un po' ricostituita. Lui che dice anche in questa intervista su Time, sul settimanale americano: voglio cambiare il modo di vivere degli italiani. Su questi sono espressi diversi facebookiani, diciamo, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Che cosa sarebbe da cambiare, per esempio, secondo voi, del vivere italico? E poi la crisi greca. La crisi greca è un bel guaio in Europa e per se stessa soprattutto, no? Deve votare adesso questo piano di austerity, molto molto molto doloroso, tanto che ci sono tante manifestazioni di piazza, si sono dimessi diversi ministri e Papademos, il primo ministro, è un po' in difficoltà, e vediamo un po' come verrà votato dal Parlamento questo piano anticrisi. Poi, per quanto riguarda di nuovo l'Italia, il disegno di legge svuota carceri, che è passato, ma ha creato, almeno in Camera, poi alla Camera deve passare al Senato, varie polemiche. Da una parte la Lega, che ha protestato perché c'è troppi delinquenti poi fuori dalle carceri, e anche Italia dei Valori, che ha detto è una resa dello Stato, ma la ministra della giustizia Severino ha detto no, non è una resa dello Stato ed è stato interpretato male. Cosa ne pensate anche di questo? Poi ci sono le polemiche, anche questa volta, delle gaffe di qualche ministro, i ragazzi che sono mammoni, che vogliono il posto di lavoro vicino casa, e insomma questo che chiaramente ha creato una certa indignazione. Poi anche la ministra Fornero, che è ritornata sulla questione dicendo il posto fisso è solo un'illusione. Insomma, si capisce bene cosa vogliamo fare con questi posti di lavoro, col mercato di lavoro, una riforma che dovrebbe essere varata entro marzo. E cos'altro ancora? Certo, ieri 10 febbraio era il giorno del ricordo, sapete, questa tragedia enorme tra il 43 e il 45 delle foibe, con 20.000 italiani e più, e non solo italiani, che dalla truppe del maresciallo Tito sono stati gettati nelle foibe. E poi il presunto complotto contro il Papa. Ci sarà stato, non ci sarà stato questo complotto? Pare, almeno dice il Fatto Quotidiano, che il Vaticano ammette, il documento esiste, ma dice si tratta, dicono dal Vaticano, di farneticazioni. Benissimo, questo è un piccolo piccolo assunto. E poi vogliamo mantenere il nostro rito, naturalmente, per dirci che cos'è che questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più. mezze stagioni, ma neanche le intere. Bene, fino a pochissimo tempo fa l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, voluta appunto dalle Nazioni Unite, ogni tot decideva di preservare un bene simbolico, culturale del mondo, della terra, di solito paesaggi, monumenti, magari anche piatti tipici, dei prodotti particolari. Invece, che cosa ha deciso mercoledì di considerare patrimonio dell'umanità? Ecco, patrimonio inviolabile dell'umanità, l'urlo del radiocronista norvegese che aveva urlato tutta la sua felicità e il suo sfogo durante la partita Norvegia-Inghilterra del 1981, match che era valido per le qualificazioni ai mondiali di Spagna, e quando la Norvegia aveva battuto l'Inghilterra, questo urlo pazzesco di grande entusiasmo, un po' nazionalista, un po' patriottico, insomma è diventato un patrimonio dell'umanità. Quindi se vi scappa quell'urletto, quell'urlo, cercate di farlo anche in un'occasione in cui ci siano dei testimoni che possano valutare, apprezzare anche, diciamo, la qualità di questo urlo. Ma adesso alle ciance a 800 24 0024 per i vostri commenti sulle notizie della settimana. E chi è l'opinionista estemporaneo di questa puntata? Michele Ainis. Michele? Eccolo, buongiorno. Cosa stavi pensando? Adesso voglio sapere cosa stavi pensando, che ti sei un po' riconcentrato. Stavo guardando fuori dalla finestra che ha ricominciato a nevicare a Roma. Ecco, io ho cominciato la giornata spalando neve come molti italiani di questi tempi, e mi sa che mi ritoccherà prendere una langa in mano. Quindi tu sei uno di quelli che, diciamo, anche incitati qualche giorno fa da Alemanno, l'ha presa seriamente questa pala in mano, perché qualcuno diceva, io di persone con le pale non ne ho viste, qualcuno diceva che c'era un cimitero di pale, un magazzino con pale che erano lì buttate da qualche parte, invece tu sei uno spalatore ufficiale, possiamo definirti così. Sì, insomma, non tutti i giorni, ma Senti, ma la situazione com'è? Siccome oggi gli ospiti saranno tutti da Roma, dimmi il tuo punto di vista. Ma io abito nella zona nord di Roma, che è stata quella più bombardata dalla neve, e dunque stamattina ho proprio davvero dovuto prendere, insomma, spalare un po' di neve, altrimenti non riuscivo a uscire di casa. Ne ha fatta tanta, più della settimana scorsa, bella a vedersi, faticosa a viversi. Però Michele, insomma, si rimbocca le maniche. Michele è costituzionalista, è prevista dalla Costituzione la neve almeno ogni tot a Roma? Non è vietata, molto bene. Editorialista del Corriere della Sera, anche oggi c'è un suo editoriale su partiti e sindacati e quella poca democrazia al loro interno, no Michele? C'è questo tuo editoriale oggi che si intitola, vediamo che lo riprendo qui, Protagonisti indispensabili, e poi l'occhiello Partiti e sindacati e Costituzione. Ma è una storia, ahimè, vecchia, nel senso che noi viviamo in un paese in cui corporazioni dettano legge alla lettera, perché la legge notarile, la legge bancaria risalgono a prima nella prima metà del Novecento, e invece però non c'è una legge sui partiti, non c'è una legge sui sindacati, per la verità non c'è nemmeno una legge sulle lobby come hanno negli Stati Uniti dagli anni 40 anche lì. E allora questo vuoto normativo insomma produce una qualche ferita alla democrazia italiana, o comunque alla trasparenza della vita democratica, e credo che sarebbe nell'interesse degli stessi partiti fare in modo che una legge che garantisca i diritti degli iscritti, un controllo sulla loro vita democratica e quindi sulla formazione dei gruppi dirigenti, oltre che sulle finanze, sulle casse, come il caso Lusi insegna. Senti, ma dimmi una cosa Michele, ma tu lo farei, tu aderiresti a questo mio partito antifreddo nel caso io? Io sono siciliano. Lo facciamo democraticamente, non è che io nascondo conti, cose varie, poi fammi sapere Michele. Ma ti devo fare una domanda importante a questo punto, a proposito di freddo. A te piacciono le zucchine? Sì, perché no? Insomma, io però mi chiedo, ogni volta che fa freddo, quasi tutti gli inverni, il prezzo delle zucchine proprio esplode, c'è un picco verso l'alto incredibile del prezzo delle zucchine. Questa volta, titolo del Corriere della Sera, più 166%. Ora dico, va bene che a qualcuno piaceranno queste zucchine, non è che mi facciano impazzire, devo dire. Ma com'è che manco fossero, che ne so, la panacea, l'elisir di lunga vita. Di che sono fatte queste zucchine, Michele? Bisognerebbe entrare nella zucca di chi vende le zucchine. Non so, perché evidentemente c'è una corsa all'acquisto di queste zucchine, e questo poi con la speculazione naturalmente porta a questi prezzi. Non comprate le zucchine, se costano così c'è tanta altra verdura. A me piacciono più le cime di rape, per esempio, perché le zucchine è vero che sono più semplici da fare. Volevo chiedere, visto che questa è una puntata speciale, all'onorevole Carlo Giovanardi, a lei piacciono le zucchine? Non particolarmente. Non particolarmente, quindi non sarebbe disposto a pagare il 166% in più per comprare due zucchine? No. Giusto? Carlo Giovanardi è qui in collegamento. È una puntata, questa vi dicevo, speciale, no? Di solito io ho un opinionista estemporaneo per tutta la puntata e poi altre incursioni varie. Ma l'onorevole Carlo Giovanardi, che è responsabile delle politiche per la famiglia del PDL, mi ha chiamata a fine della scorsa puntata perché fra le tantissime notizie di cui si era parlato avevo citato anche, perché l'avevano commentata su Facebook le ascoltatrici e gli ascoltatori sulla pagina di Non ci sono più le mezze stagioni, la dichiarazione della ministra Elsa Fornero, che non solo si occupa del Ministero del Lavoro ma anche la delega alle pari opportunità, e aveva detto molto chiaramente la scorsa settimana che, vediamo se la riprendo, ma la dichiarazione me la ricordo a memoria, che si... prende l'impegno, l'ho detto alla Camera, nel corso dell'audizione alla Camera, il mio impegno è pieno contro le discriminazioni anche verso gli omosessuali e i transgender. Un dato che sotto gli occhi di tutti, ha affermato la Fornero, è il grave ritardo culturale di apertura mentale che il nostro paese rappresenta in tema di pari opportunità nell'accesso ai diritti rispetto alle diversità, e dice che sono molte tra le persone che non possono essere oggetto emotivo di discriminazione. Il mio impegno è pieno, i diritti sono importanti, e poi ha detto... sempre la Fornero, la diversità è un valore, deve essere tra le cose che i bambini imparano da piccoli, i semi si gettano tra i bambini e soprattutto nelle scuole. E allora c'era stata poi delle agenzie dell'ANSA che avevano riportato invece il commento dell'ex ministro Giovanardi, che ha detto: in un momento di così drammatica, di crisi drammatica per le famiglie italiane, di latitanza di quel piano nazionale della famiglia che attende di essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, è davvero singolare che si riapra strumentalmente un dibattito sul riconoscimento delle coppie gay o addirittura sul terreno delicatissimo dell'educazione alla diversità nelle scuole. Tra poco abbiamo la viabilità, onorevole, vuole fare una prima osservazione? Sì. Sì. Io mi riferivo ai commenti di Grillini, dell'onorevole Concia e dell'Arcigay, che immediatamente hanno riaperto e riproposto la tematica due volte bocciata dal Parlamento, cioè quella di rendere reato di opinione quello di sostenere che c'è una normalità, e di riprendere nuovamente il discorso del matrimonio gay, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho detto che era strumentale assumere quella dichiarazione del ministro per riaprire queste tematiche, che sono tematiche assolutamente delicate, alcune secondo me, come quello del matrimonio. Però, a parte il matrimonio, mi scusi. Assolutamente, ma di questo hanno parlato la Concia e gli altri, io mi riferivo alle loro dichiarazioni. Ma il matrimonio, lei sa che esiste in molti stati europei e anche in diversi stati degli Stati Uniti, adesso anche nello stato di New York, tra pochissimo. Su 180 stati al mondo esiste in 5, negli altri 100. No, non esiste solo in 5, no, solo negli Stati Uniti sono 6-7, più diversi stati in Europa. Sono 50 gli stati degli Stati Uniti, quindi in 44 non esiste, ma io ho sempre detto che noi abbiamo una Costituzione, stiamo parlando con un costituzionalista. Abbiamo un accordo costituzionale che recentemente, nell'ultimo anno, ha ribadito che per la nostra Costituzione il matrimonio può essere solo fra un uomo e una donna. Quando il Parlamento avrà deciso italiano di modificare la Costituzione ed ammettere anche il matrimonio uomo-uomo, donna-donna... Lei sarà d'accordo? Lei sarà d'accordo? Io, quando ho fatto il ministro, come Parlamento, ho giurato fedeltà alla nostra Costituzione, quella che è, quella poi, che sarà. Giovanardi, poi, quella prego. Che sarà? Perché la verità cambiata la rispetterò. Benissimo. Però, allora, ministro Giovanni, questa è già una cosa grossa. Politicamente, sì? Perché non passi il concetto di un matrimonio, non di una relazione affettiva, che è un'altra cosa, che sia matrimonio quello fra un uomo e un uomo. Allora, tra una donna e una donna invece è diverso? Uguale, no? Ah, vabbè, uomo, magari a volte le donne. Chiaro. Parola a te, Michele, diceva, noi non avevamo parlato di matrimonio, l'onorevole diceva che si rifaceva a quello che avevano detto Paola Concia e altri deputati, ma è vero che la Costituzione italiana in ogni caso vieta il matrimonio tra due donne o tra due uomini? È vero che la Corte Costituzionale ha offerto questa lettura, l'ho offerto di recente, come ricordava l'onorevole Giovanardi, di divieto di matrimonio omosessuale. Dopodiché potremmo aggiungere molte considerazioni. Intanto, così, la Corte Costituzionale talvolta cambia idea. Ricordo, per esempio, che nel 1962 le venne posta la questione di legittimità costituzionale circa un reato che era previsto allora dal codice Rocco, dal codice penale, che riguardava la punizione del solo adulterio femminile. Cioè l'adulterio della sì. moglie era un reato, quello del marito no. E anche il delitto passionale, no? Quindi era giustificato in qualche modo. Succede tutto. Sì, poi c'era. Allora la Corte in quel caso disse: beh no, questo va bene, è in linea con la Costituzione, perché altro è l'isolata infedeltà del marito, ricordo abbastanza testualmente le frasi, e altra è che la moglie concede i propri amplessi ad un estraneo. Poi la stessa questione ritorna in Corte Costituzionale nel 1969 e la Corte finalmente fa cadere quella discriminazione odiosa. Perché? Perché nel frattempo c'era stato il 68, c'era stata una rivoluzione dei costumi. Meno male per certi versi, no? Almeno, no? Diciamo che c'è stato un movimento di liberazione delle donne rispetto ai loro diritti, così come la Corte Suprema americana aveva giustificato per anni la segregazione razziale, salvo poi cambiare idea. Cioè le corti costituzionali non vivono su una torre d'avorio, vivono nella società, respirano gli umori della società. Probabilmente la società italiana non è ancora pronta al riconoscimento del diritto al matrimonio, stiamo parlando del matrimonio. Io non ci vedo un impedimento formale nella lettera della Costituzione, che l'articolo 29 definisce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. L'aggettivo naturale significa che è l'evoluzione della società che stabilisce che cosa sia la famiglia e che cosa sia il matrimonio. Ad ogni modo, quello che mi sembra ancora più grave però è che noi non abbiamo nemmeno in circolo delle forme di tutela minori, se vogliamo, rispetto al matrimonio. Si parlò dei DICO, famose unioni civili, insomma, ecco, a parte tutti i vari nomi che sono stati dati, ecco, anche perché fantasiosi. Poi e chiudo qui, dovrebbe esserci un criterio che funziona da bussola, cioè qual è l'offensività di questo comportamento. Cioè se due signori o due signore decidono di sposarsi, a me cosa tolgono? Ecco, voglio chiederlo all'onorevole Giovanardi, visto che ci sono già tanti commenti già sulla pagina Facebook, Michele, Luca, eccetera, eccetera. Che le toglie, onorevole Giovanardi? Allora, intanto non condivido l'interpretazione di naturale, ma basta andare a vedere sugli atti preparatori della Costituzione quando si parlò del matrimonio. E naturale vuol dire che gli uomini e le donne sono fatti e hanno determinati organi, per esempio gli organi riproduttivi femminili, che sono stati creati apposta per dalla natura per svolgere queste funzioni. Ci sono altri organi che invece sono stati creati per altre funzioni. Ora, per esempio, una bambina, con la delicatezza nella scuola una bambina, io credo che sia normale e fisiologico spiegare che ci sono organi femminili e organi maschili che sono stati creati con determinate funzioni. Ecco, ma quello il principale della riproduzione, altri organi invece. Quali altri organi? Il naso, tipo? No. Quelli che, per esempio, adito a rapporti omosessuali che sono assolutamente nella nostra società, diversamente da quelle antiche, diversamente da quelle musulmane, sono state assolutamente parificate nel senso dell'orientamento. Nessuno contesta il diritto ad una persona dello stesso sesso di avere, no, ma scusi Giovanardi, scusi, siccome sono un po' forse ignorante, quali sono gli organi che invece si mettono insieme tra due donne e tra due uomini, diversi da quelli che una donna ha o un uomo ha? Non ho capito questa cosa. Sì, certo, evidente che i rapporti che hanno due omosessuali tra di loro sono rapporti che non ricomprendono l'utilizzo dei fattori riproduttivi e degli organi riproduttivi come fra un uomo e fra una donna. È una forma diversa di sessualità che si esplica in maniera diversa. Sì, ma come? Allora, nel senso magari non rimane incinta l'uomo, non rimane incinta la donna, tra l'altro. Però sì, quelli sono diversamente, utilizzando organi diversi. La sodomia sa che cos'è, non c'è bisogno che spieghi, credo che chi ci ascolta capisca la differenza di rapporto che c'è fra un uomo e una donna. Ecco, ma la sodomia, mi scusi, allora, onorevole, scusi, no, perché sennò, ma la sodomia, quando si parla di natura, quando si parla di scuola, per esempio, di educazione a bambini, io credo che sia normale, corretto e fisiologico ai bambini illustrare che gli organi riproduttivi, l'incontro fra l'uomo e la donna, avviene in una determinata maniera. il che implica che non puoi dirgli che è altrettanto naturale. Perché no? Ma scusi, perché non è così in natura. Poi che uno abbia orientamenti diversi è assolutamente accettabile. Quindi lei non è d'accordo con la ministra Fornero che dice sin dalle scuole voglio fare questa cosa in collaborazione con il ministro Profumo? Se avesse questo avrebbe la rivolta del Parlamento. Se dice che tutto il Parlamento si rivolge. Avesse voluto dire, come Zapatero di Spagna, che devi fare ai bambini, devi dare la favola di Cenerentola o di Biancaneve in versione uomo-donna, uomo-uomo e donna-donna, perché sennò sarebbe discriminatorio, avrebbe la rivolta del Parlamento. Ma non credo che il ministro Fornero ha voluto dire quello. No, ha detto, lo riprendo qui dove la dichiarazione. Ha parlato di educazione alla tolleranza, perché se avesse voluto dire invece che cancella il dato naturale, cioè che la fisiologia è quella dell'incontro fra uomo e donna, scusi, allora lei... la fiducia la perderebbe di molti, molti dei parlamentari che portano questo governo. Scusi, ma quindi lei, ecco, dico, per esempio la sodomia di cui lei parlava tra due uomini, è possibile invece tra un uomo e una donna e va bene, è fatta apposta? No, no, scusi, io parlo di organi riproduttivi, altro che un bambino. Però la sessualità è un po' più varia, no? Della... riproduttivi. Non è così legata sempre alla riproduzione. Di cosa sta dicendo, mi scusi? No, dico, la sessualità non è sempre per forza vincolata alla riproduzione, no? Anche tra, una donna e un uomo. Organi sono fatti per ricevere, sono stati costruiti così, altri che sono fatti per espellere e hanno anche una serie per espellere. Di scene molto molto delicate, non so se è il caso di parlarne radiofonicamente, ma sa che ci sono anche dei problemi di batteri eccetera eccetera che richiedono una grande attenzione nei momenti in cui si fanno certe pratiche, onde evitare malattie eccetera eccetera. Allora, voglio dire, benissimo, non c'è problema, nel senso che ognuno ha l'orientamento che vuole, pratica quello che vuole, però nel momento per esempio dell'educazione sessuale nelle scuole ai bambini e alle bambine si deve dare un modello. Quindi insomma, mi pare una questione molto fisiologica più che sentimentale, insomma, però alla fine le dice ognuno può... Guardi, ma non è che la natura ci abbia costruito in un determinato modo, ha costruito determinati organi in una determinata maniera. Beh, è un po' meccanicistica questa cosa, però onorevole, perché se una donna o un uomo dice io della mia sessualità, dei miei organi riproduttivi... Ma è esattamente quello che dico io, se può fare le sue quello organi, che vuole. Quello che vuole. Ma è esattamente quello che dico io. Benissimo. Mi scusi, onorevole. Ma se invece mi portano un discorso qui là, cioè che è naturale, e quindi è esattamente pari, uguale, non c'è problema, e quindi un passaggio ancora più in là, si possono sposare gli uomini e le donne, ma si possono sposare anche gli uomini e gli uomini, Ugo con Ugo, perché tanto è la stessa cosa. E Francesca con Francesca. Onorevole, però dobbiamo essere sintetici, mi perdoni, perché abbiamo tanti ascoltatori in linea che mi mettono giù tra poco, giustamente, poi ritorniamo se vuole restare ancora. 800 24 00 24. Nicola da Milano, grazie della pazienza, così a Aurelio, così a Claudio e via dicendo. Nicola, riesci a essere autentico, scusa? Pronto? Sì. Sì. Ciao, no, pensavo di aver tagliato il programma, devo parlare di cose un po' particolari. Ti sei un po' scabrosa. Ma... Sì. Prego. Sì. No, volevo dire che Giovanarini è molto simpatico per la cadenza, però per quello che dice Francanuti lascia molto desiderare. Comunque le sono perse. Adesso ognuno ha le sue simpatie. Prego, Nicola, qual è la tua notizia? Allora, ho fatto una risata fino adesso e quindi adesso cerco di stare serio. Allora, la notizia è, io sono sempre quel Nicola famoso in mobilità, non è solo per discorso. Ah, che mangia riso e fagioli. Che mangia, sì. No, adesso ho migliorato, adesso ho visto la Caruscia. Hai visto là? La Caruscia, l'insalata russa, beh, se uno se la sa fare da sola, non prendere le zucchine, allora, chiaramente. Faccio, no, vado sulla domanda. Allora, io proprio ieri ho mandato una mail a Elsa Fornero. Ah, niente, un po' di mail. Non avendo trovato quella del Dicastero, l'ho mandato a quella della sua università. Quindi l'ha ricevuto, spero che mi risponda. Il problema è proprio il discorso del posto fisso. Io ho chiesto alla Fornero, che secondo me c'è un po' una sperequazione tra il discorso posto fisso privato e posto fisso pubblico, anche perché io passando giornalmente, quotidianamente davanti a lì, quelle vedo in continuazione i giornali, quelli specializzati sui concorsi, non cerca i 700 per subire a 1000. Riesci a essere breve, ti prego Nicola, scusa. No, ecco, che senso ha parlare allora della inutilità del posto fisso quando vengono banditi concorsi pubblici per centinaia di posti, tutto qua. Hai ragione in questo, c'erano varie altre incongruenze in questi giorni, sì, sul posto fisso che diceva è un'illusione e poi dopo invece dice no, cerchiamo invece di, a parte l'articolo 18, di garantire il fatto che progressivamente possa diventare un posto fisso, ci siano man mano garanzie quando una persona entra in un'azienda e così via. E prima della breve pausa, Aurelio da Bari? Sì, pronto! Oh, la miseria, Aurelio, tutta questa grinta, che devi dire? Mi sente, sì? Sì, benissimo, meglio di così. Eh sì, io a quest'idea del posto fisso e di cambiare sempre volevo dare il mio contributo, diciamo, sono un professionista. Sì. Volevo dire, poi quando andiamo in banca a cercare un fido o un mutuo per una lavatrice, gli portiamo il 7,40 di uno che ha un contratto a 6 mesi che poi si rinnova, cioè la banca ti mette alto rischio. Io ho cercato un fido di 5.000 euro in banca, garantendo con delle obbligazioni per 8.000 euro, oltre a una polizza, eccetera, eccetera, e il fido non me l'hanno dato perché hanno detto che sono ad alto rischio. Cioè, questo è lo scenario che vuole il signor Monti per il nostro futuro. Sei stato chiarissimo. Sei stato chiarissimo, Aurelio, grazie anche della sintesi. 800 24 0024. Prima di sentire Michele Ainis che ne pensa delle spiegazioni fisiologiche dell'onorevole Giovanardi, Claudio da Roma. Eccomi, buongiorno. Buongiorno a te, Claudio. Dunque, io, come raccontava la sua collaboratrice, a maggio del 2011 ho comprato una bellissima Ferrari California Cabriolet. Complimenti, buon per te. Dopo circa 30 anni di lavoro di avvocato, di studi, eccetera, l'ho intestata a me avendo il reddito sufficiente per poterla comprare, quindi diciamo che le tasse le ho pagate alla fonte. Ora, oltre a ritenere ingiusto il provvedimento, perché toglie lavoro sicuramente agli operai della Ferrari, che probabilmente ne costruiranno di meno, la gente non volendo pagare questa tassa ingiusta, ma lo Stato non dà un corrispettivo, non dà una somministrazione di servizi per questo importo maggiorativo di circa 4-5 mila euro all'utente che acquista il mezzo. Io già anni fa feci un ricorso alla Commissione Europea per una tassa di concessione governativa che venne pagata dalla società SPSRL, e la Commissione Europea mi diede ragione, io riottenni con decreti aggiuntivi vari dal Ministero delle Finanze i soldi che queste società avevano pagato ingiustamente, perché era una tassa vera e propria, cioè un pagamento in denaro senza avere un corrispettivo. Quindi posso avere la vostra opinione, perché credo che uno deve essere ragionevole in tutto, anche se lo Stato ha bisogno di soldi, ma deve cercarli dove vanno trovati. Non... Scusa, quindi Claudio, non ho capito, l'auto non è intestata a te, la splendida Ferrari, non ho capito. Sì, diciamo che è ingiusto che adesso, dopo averla comprata, io dovrò pagare circa 6.000 euro di bollo, quando io le tasse le ho pagate per il mio reddito già precedentemente, quindi non è che sono un evasore fiscale che compra una macchina di lusso e poi oltretutto lo Stato non dà un servizio in più all'utente, cioè non è che tiene meglio le strade con questi miei 6.000 euro. Cioè, lo so, diciamo che è un prodotto, un bene di lusso il tuo, no? E quindi... chiaramente va pagato di più, però Claudio, è una questione, non so se poi Michele Ainis, essendo costituzionalista, si occupi anche di queste cose. Ti devo dire che in questi giorni diverse persone hanno ridato indietro le loro auto di lusso per paura, hanno detto, di troppi controlli fiscali. Michele Ainis, tra Giovanardi e Claudio da Roma, sinteticamente, come vuoi destreggiarti? Potremmo regalare una Ferrari a ogni coppia gay che si sposa. Mamma mia. Non so se Giovanni sia d'accordo, ma insomma può essere un'idea questa. Invece di dare magari poi dei sussidi, delle cose come prendono tutte le coppie, si potrebbe, visto che anche gay, donne e uomini pagano le tasse come tutti, hanno gli stessi tagli come tutti, patiscono i tagli delle pensioni come tutti, mi sembra che si possa... concludiamo così quindi questa cosa, Michele? No, lì se dobbiamo andare fuori dalle battute, per quanto riguarda il superbollo sulle auto di lusso, a me non torna molto il fatto che non venga ancorato al valore commerciale dell'automobile, ma soltanto ai kilowatt, alla potenza fiscale, perché io posso avere una macchina vecchia di 15 anni che quindi vale quasi zero sul mercato e che però mi si appioppa un superbollo e invece non lo pago il superbollo su una macchina nuova che ho pagato anche 50.000 euro. Vabbè. Invece per quanto riguarda la questione del matrimonio omosessuale, io credo, lo dico sommessamente, ma insomma che l'onorevole Giovanardi un po' confonde il matrimonio con la riproduzione, perché voglio dire, una coppia di un uomo e di una donna sterile l'uno o l'altra, mica non si può sposare, si può sposare. Quindi altro è il matrimonio, altro sono i figli. Aggiungo che una legge del 1982 consente di sposarsi ai transessuali nel momento in cui cambiano sesso. E questo è discriminatorio rispetto ai gay. E se devo proprio dirla, a me pare che noi abbiamo un problema più generale che riguarda il dominio di ciascuno di noi dei nostri stili di vita, e questo reclama una maggiore tolleranza anche da parte delle leggi, perché l'elenco dei temi etici su cui noi siamo in deficit rispetto al resto del mondo è lungo, dalla fecondazione assistita alla fecondazione eterologa che è permessa in Francia, in Belgio, in Spagna. È venuto fuori qualcosa proprio ieri su questa, anche in Italia, di un avvocato che vuole fare causa allo Stato per questa legge che ritiene discriminatoria, insomma, che ha impedito a tante coppie che adesso magari hanno età avanzate di riuscire ad avere figli. Insomma, tutte questioni che si aprono l'una all'altra come scatole cinesi, ma adesso mi avverte Paolo Corleoni che abbiamo, essendo questa l'unica trasmissione nell'universo che si collega a un altro pianeta, che abbiamo proprio questo collegamento. Riflessioni da Marte. Tanto per cominciare, va detto che la crisi non risparmia nemmeno i pianeti alieni. La NASA ha infatti annunciato ieri che non sbarcherà più su Marte e la spiegazione è molto semplice. Mancano i soldi, i danè, si direbbe in milanese. Dunque, quassù si potrà godere ancora per qualche tempo di un po' di tranquillità, diciamolo, e continuare quindi a osservare il globo terraqueo. Da dove si è intravisto in questi giorni il volto di un nonno elegante e sorridente su carta patinata con sotto la dicitura un primo ministro per tempi disperati. E sono tempi disperati sì, ma per fortuna è quasi carnevale e si sa che ogni scherzo vale. E così Cesare Battisti, non il patriota eroe nazionale, ma l'ex terrorista pluriassassino condannato a 4 ergastoli, coccolato come un eroe transnazionale prima dalla Francia e ora dal Brasile, adesso che è appunto carnevale, può mai perdersi Battisti Cesare l'occasione di partecipare al carnevale di Rio? Dice che uno dei direttori della Bola Preta, una delle maggiori scuole di samba della città carioca, gli ha chiesto di sfilare al Carnevale di Rio. Sì, proprio a lui. E lui ha risposto con entusiasmo: certo che ci vado, la Bola Preta porta in strada 2 milioni di persone in Brasile. Ve lo immaginate il pluriassassino dimenare i fianchi per le strade di Rio in mezzo a piume, natiche toniche al vento, carri giganteschi e musica indiavolata, mascherato da persona per bene. Un vero spasso. E va buo. Si potrebbe dire, così come ha detto il fulgido comandante Schettino, che ai collaboratori che lo avvisavano che le persone scendevano da sole nelle scialuppe, ha risposto per l'appunto proprio va buo, yeah. E a proposito di carnevale e mascheramenti, dovete sapere che la nazionale dei parlamentari italiani si è mascherata da squadra di benefattori per una delle sue migliori prestazioni in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Invitata la nazionale parlamentare a un torneo di beneficenza a Catania, ha concesso magnanimamente se stessa, no, diceva vabbè, veniamo a giocare, ma precisando che doveva essere totalmente spesata, compreso il ristorante a fine partita, con vino, dessert, caffè e ammazzacaffè inclusi. Ma al colmo della generosità particolarmente ispirata, diciamo, i parlamentari in braghette, mascherati da calciatori benefattori, quando a fine partita un funzionario della polizia municipale lì di Catania ha fatto il giro degli spogliatoi per chiedere un contributo finalizzato all'acquisto di 3 carrozzine per bambini disabili, dal folle costo per dei parlamentari di euro 700 l'una, si sono ritratti allibiti e non hanno sganciato nemmeno un euro. A guidare la compagine parlamentar calcistica bipartisan era l'onorevole Maurizio Paniz del PDL, quello che credeva ciecamente alla nipote di Mubarak, che guadagna all'anno la modesta cifra di oltre 1.800.000 euro. Ma il premio della coerenza, o anche diciamo della faccia tosta, va a Gioacchino Alfano del PDL, che era lì nella compagine nazionale calcionalistica parlamentare, che sul suo sito, sotto una bella foto di lui impegnato in una partita calcistica, scrive: quando gli ideali scendono in campo. Insomma, l'avete capito? La maschera vincente di questo carnevale è quella degli spudorati. Sono senza memoria, sono senza vergogna, sono senza pudore, sono senza perdono, sono senza memoria, sono senza vergogna, sono senza. Senza vergogna, sono senza pudore, sono senza perdono, sono senza memoria, sono senza vergogna, sono senza. Siamo tutti senza. Siamo senza, siamo quasi tutti senza, siamo senza. E ritorniamo qui con i piedi per terra. Stavo guardando tantissimi messaggi che arrivano in diretta sulla pagina Facebook, sono talmente tanti che non riesco a starci dietro con tutte le cose anche che devo fare, dire i tempi che corrono. E anche l'onorevole Giovanardi, al quale volevo chiedere che ne pensa di questa storia dei calciatori della nazionale parlamentare che per tre carrozzine a 700 euro manco un euro. Lei gioca a calcio? Era la nazionale? No, io ho giocato, ma credo che l'onorevole Panis il prossimo anno guadagnerà molto di più, perché chiaramente è assolutamente diffamatorio e calunnioso il servizio che è passato prima, quindi credo che Panis avrà modo di arricchirsi alle spalle di chi ha detto queste cose. Ma era sui giornali di questi giorni? Il fatto che i giornali, forse lo saprà che fa la giornalista, sì, non sempre raccontano la verità, anzi molte volte raccontano delle cose diffamatorie, calunniose. Quello che è stato detto in questo servizio è sia diffamatorio che calunnioso. Quindi, se ma mi al di là, vuole Panis, mi scusi, Giovanardi, ma al di là di quello che guadagna Panis, perché non hanno dato un 700? Ma chi lo dice? Ma chi l'ha detto? Scusi, ma chi lo dice? Ma chi ha detto quelle cose che voi date per oro colato? Chi l'ha detto che sono vere? Quindi è falso che non abbiano dato un cento, cioè hanno scritto, hanno fatto questa radiocronaca, telecronaca. Secondo me l'onorevole Panis avrà occasione, sentito questo servizio, di implementare ancora di più il fatto di essere un grande avvocato e di avere anche occasione di, lo dico perché sono ormai stanco, sinceramente, anche indignato, di una informazione che non sa di che cosa parla, che mistifica le cose, che continua a ripetere come mantra informazioni del tutto sbagliate, per esempio sui banamentali, sulla loro retribuzione, eccetera, eccetera, e che dà scontate, naturalmente, eccitando la gente nell'antiparlamentarismo, contro i parlamentari, che da quelle tre minuti appaiono come una manica di mostri. No? Scusi, però, nella nazionale di quanti si era fatti? Almeno 11 calciatori con le riserve, no? Anche i parlamentari. Qualcuno avrà potuto smentire? Non c'è stato uno che ha smentito in questi giorni, scusi, onorevole, non si è visto. È vero, perché chi ha la stampa in mano le smentite fa fatica a darle, e poi quando le dà, molte volte le mistifica nuovamente. Io credo, però, veramente, siamo in uno stato di diritto, quindi ci sono anche le regole del gioco, e quindi le regole del gioco sono che se qualcuno mette in giro informazioni o notizie o commenti che siano diffamatori o calunniosi, ne deve rispondere. Giovanardi, mi dica una cosa a proposito di risposte: se lei vedesse due ragazze che si baciano per strada, si tengono per mano e si baciano per strada, direbbe che schifo, oppure finalmente qualcuno si ama? Guardi, o che altro? L'ho detto un milione di volte che ci sono situazioni e situazioni. Un nudista in un'isola dei nudisti non mi dà nessun fastidio. Un nudista a Riccione sotto l'ombrellone, dove ci sono i bambini, le mamme, mi dà fastidio ed è fuori posto. Ecco, ma un uomo e una donna che si... Scusi, onorevole, mi faccia parlare un po'. Uomini o le donne che ostentatamente si baciano in un supermercato, dove si non baciano? È il luogo adatto per farlo. Ma... come ai figli dà fastidio persino quando vedono i genitori, eppure sono i loro genitori, che assumono atteggiamenti. Quindi mi scusi, Giovanardi, quindi c'è licenza di bacio per qualcuno e licenza di non bacio per qualcuno, non licenza io di detto, bacio? Ho altre licenze. Se lei c'è un attimo attenta e non fosse prevenuta nelle risposte, l'ho detto che no, sono io, sto cercando di domandarle. Anche davanti ai genitori, quando i genitori davanti ai figli si baciano, non possono piccoli o grandi hanno delle fusioni fra di loro, un bacio, sono giustissime, ci mancherebbe altro, possono creare del disagio. Ma a lei dà fastidio, a lei personalmente, due ragazze che si baciano per strada? Personalmente, in un supermercato, l'ho detto. O in, ma a parte il supermercato, luogo, diciamo alla stazione. In un luogo pubblico vedo due uomini che ostentatamente si baciano fra di loro. Ma non è ostentatamente, si danno un bacio. Mi dà fastidio. Ecco, due ragazze che si lasciano alla stazione, una sale sul treno, l'altra lì sotto. Due ragazze che si lasciano alla stazione, una sta due partendo col treno. Ostentatamente si baciano. Ma sta partendo ostentatamente questo verbo, scusi, Giovanni. Mi lasci spiegare. Ma c'è sempre una misura nelle cose. No, ma mi lasci spiegare. A lei dà fastidio uno che fa pipì? Dice no, perché uno va in bagno e fa pipì. Ma che c'entra? C'è una cosa sconcia. Se uno invece si mette, Giovanardi, ma una cosa sconcia. Giovanardi, ma scusi, ma una cosa sconcia se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra è giù, si saluta, si chiamava il bon ton. Donna Letizia lo chiamava il bon ton. Vabbè, andiamo al nostro appuntamento molto sintetico, perché i tempi sono corsi molto velocemente, con Maria Laura Rodotà, editorialista del Corriere della Sera. Maria Laura, dacci proprio così una pungolatura, proprio lì, a getto. Non lo so, oggi hai perso un'ascoltatrice. No, e chi è questa ascoltatrice? Io. Perché? E perché io in genere ti sento sempre, ma non c'avevo voglia di sentire Giovanardi. Ma Maria Laura, su, via. Ma sì, ma perché dobbiamo ridurre il dibattito su questioni importanti come i diritti di tutti a queste cose macchiettistiche che magari qualcuno gli dà anche retta? Voglio dire, Giovanardi è bravo in radio, è veramente bravo. Dopodiché... insomma, dai. Vabbè, almeno riconosci la radiogenia. Grazie Maria Laura Dottà, ti prego. Ascolta lo stesso e poi ascolta perché ci sono io al di là degli ospiti. qualcuno possa piacere, a qualcuno no. E poi c'è l'altro appuntamento, anche questo estremamente sintetico, con Valeria Della Valle della Sapienza di Roma. Scusa Valeria, io ti chiedo sempre di essere fulminea, tu sei straordinaria, la nostra linguista, a cui vorrei sottoporre il termine questa settimana, mammoni, visto che è ritornata quella polemica, no, su certo, queste questioni. Certo, insomma mammoni, la parola mammone fino agli anni 60 la conoscevamo col significato di scimmia, macaco. Mammone viene dall'arabo maimun e la conoscevamo nell'espressione gatto mammone, un mostro, quello delle favole, per spaventare i bambini. Però dagli anni 60 è nata, si è diffusa la parola mammone come derivato di mamma, e cioè il bambino o anche l'adulto troppo attaccato alla mamma. Ma in anni recenti, grazie prima al ministro Padoa-Schioppa e ora alla ministra Cancellieri, ecco che siamo arrivati ai bamboccioni prima e ai mammoni dopo, e anche un po' sfigati, con una nuova sfumatura, no? Quella di quelli che i ragazzi che non vogliono crescere, non vogliono neanche allontanarsi da casa per cercare lavoro. Morale, un tempo si aveva paura dei gatti mammoni, oggi solo dei mammoni, oppure qualcuno ha paura anche di giovanarli. Grazie Valeria Della Valle, grazie. Non credo che l'ex ministro possa far paura, naturalmente le sue opinioni. E c'è Chicca da Novara, si riesce a avere un po' un flash, Chicca, perdonami, ti chiedo scusa. Molto flash, una frase di Oscar Wilde che mi sembra che vada bene per la circostanza, e cioè nulla è peggio di una risposta che viene prima della domanda. Forse per i bambini la diversità, per i giovani la diversità è importante ascoltare quello che loro chiedono, quando lo chiedono al momento giusto, e mettere insieme i genitori con gli insegnanti, perché sennò i poveri insegnanti, io me li immagino, che difficoltà a fare da portatori di un'ideologia che magari non è loro, o comunque una cosa, non dico che sia un'ideologia, ma diventa un'ideologia se trattata un po' in questo modo così preventivo, cioè dobbiamo dirgli prima quello che devono pensare loro, ma non solo su questo argomento dell'educazione universitaria. Grazie Chicca, grazie mille. E Leonardo da Catania, anche tu, proprio diciamo in 33 secondi? Scusa. Sì, volevo fare una domanda all'onorevole Giovanardi. Poi qui ci vuole una risposta, però. Di. Seguendo la sua logica, dovrebbe essere vietato l'onanismo, la sodomia e tutti i metodi contraccettivi. Inoltre, volevo chiedere come può una persona divorziata difendere così a spada tratta la famiglia. Grazie, riseguo per Radio a risposta. Grazie Leonardo. Adesso, onorevole Giovanardi, non abbiamo un minuto. Io si rivolge al divorziato. L'onanismo, io non ho nulla da dire, non lo chiamo matrimonio. E l'autoerotismo, l'onanismo, poi. Non lo chiamo matrimonio. L'autoerotismo. Poi ognuno lo fa anche se è sposato o non è sposato, diciamo, nel segreto della sua stanzetta. Ma non lo chiamo matrimonio. Vabbè, ma quello, siamo d'accordo, non lo chiamo matrimonio. L'autoerotismo, uno lo fa da solo, sia se è sposato che non è sposato. Michele Ainis, come possiamo concludere brevemente? Io sono stato qualche altra volta in questa trasmissione, questa è stata una trasmissione all'insegna, cosa possiamo dire? No, parlato non di mammoni e di mammelle, no? Ognuno ci ha visto il suo, ecco, diciamo. Io credo che ci sia però davvero bisogno di frequentare la virtù della tolleranza rispetto allo stile di vita di ciascuno, e quindi al pluralismo delle culture e degli stili di vita, e questo vale anche quando si tratta di educare dei bambini, e li educhi meglio anziché propinargli dei modelli di ferro, dandogli le armi per scegliere loro il modello da frequentare da grandi. Grazie Michele. Giovanardi, voglia bene a tutti, per favore. Guarda che io voglio bene a tutti. Ah, però registro l'intolleranza e la mentalità offensiva con la quale chi non la pensa come la maggioranza degli italiani, se vuole anche come quel piccolo organismo secondario che è la Chiesa Cattolica, no? Che c'è in tutto il mondo, come davanti a posizioni che vengono sostenute dalla maggioranza degli italiani. Giovanardi, mi si sta aprendo la botola sotto la sedia. Usa toni irridenti. Devo andare. Vabbè, ma lei è forte, non ha bisogno insomma di difendersi così. La ringrazio Giovanardi, Michele Ainis, voi tutti ascoltatrici e ascoltatori, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.